Ma io credo che questa esperienza del Popolo della Libertà, questo specifico partito, questo specifico strumento, credo che abbia bisogno certamente di un radicale cambiamento. In questo senso sì, è finito. Non è finita l'esperienza politica, l'esperienza di governo del centrodestra italiano che si è incarnato soprattutto con la figura di Silvio Berlusconi. Ma io non credo che ci sono delle norme salvarubi, ci sono delle norme per assicurare sono norme che si stanno discutendo. Vede, in questo caso non si può pensare che ogni volta che si fa un provvedimento che riguarda la giustizia deve essere sottoposto ad un giudizio per vedere se è favorevole o no a Berlusconi. Io penso che bisogna vedere se è favorevole o no a tutti i cittadini italiani. Non si può non fare un provvedimento perché potrebbe eventualmente favorire Berlusconi. Allora si fanno veramente delle leggi contro una persona, non a favore di una persona in questo paese. Beh, è stato un gigante della politica rispetto a tanti lillipuziani della politica e la storia renderà onore e merito ai suoi, a tutto ciò che di buono ha fatto.